anche per oggi, giorno dell'Immacolata Concezione, 8 dicembre. Quindi festivo. Saluto Alessandra qui a Roma, Cecilia Miradoli di Pindar, Maya e Nicola Locci in Sardegna, Moschita da Miramare che ci sta ascoltando da Arlen in Olanda. Francesco Cornello a Bergamo, Mariano a Berlino, Alicia Sardina, Alberto Clipper, Cristiano Bocci di Chemical Resistance, Dario Arrighi e Sara K.O. Fontana di Progetto No Name. Enrico Ponzoni, se non erro, da Milano, Sotto la Neve, Sokon Shibutsu Project insieme a Massimo Mascheroni, Flavio Derbecante di Noise Cluster e DB Pit. Allora, noi invece iniziamo dall'India. Stasera andiamo a concludere il viaggio da quelle parti sfruttando Anthology of Exploratory Music from India, un interessantissimo e complesso compendio della scena sperimentale indiana in tutti i suoi, nelle sue sfaccettature e quindi nelle varie tendenze e concezioni musicali. E concludiamo stasera con Varun Desai con Jessel Road e Sandeep Wangwati con un titolo complicatissimo che cercherò di dirvi. Dhvani Sutras Srutiranga, un estratto quantomeno di questa traccia. Io ho la fortuna di avere il formato fisico, ma comunque da quello digitale possiede una traccia in più e si può trovare sul profilo Bandcamp della Nespray Sound Group. Saluto anche Arianna Degni Lombardo di Noise Cluster, Alessandra Bersiani della Grazia Obliqua e Fade to Grace, un nuovo progetto elettronico, Dario Righi di Progetto No Name, Cornelio Basilisco di Umanima, una nuova realtà che spero di mandarvi presto appena avrò a disposizione il loro materiale. Noi intanto ci siamo gustati due aspetti apparentemente opposti riguardanti l'India. La prima traccia di Varun Desai, dove si sottolineava in maniera quasi inaspettata, perché dell'India in genere abbiamo un'altra concezione, il traffico di Jessel Road, magari di Nuova Delhi, chissà. Un traffico ipnotico, e l'ipnosi era anche al centro della traccia successiva, invece più mantrica e ritualistica, più enigmatica, con tanto di sitar e congas e tablas, come tradizione proprio dell'India stessa dal punto di vista meramente etnico. Qui chiaramente c'è l'unione e la fusione con elementi più vicini alla sperimentazione moderna. Si va a salutare anche Like Awake, progetto storico di Ambient qui a Roma, Gianluca Becuzzi e Maria sempre da queste parti, mentre noi andiamo dalle parti di Simon Balestrazzi. Lo facciamo sfruttando Cautionary Tales, questo lavoro dell'anno scorso. Le strutture armoniche molto complesse ed ermetiche di Simon, come sua tradizione. Tradizione confermata da Last Feast on an Anonymous Trinity, della quale ci andiamo ad ascoltare la seconda parte, già che ci siamo goduti la prima, mercoledì scorso. Questa Last Fist o An Anonymous Trinity, una traccia di 16 minuti che Gioco Forza ho diviso in due momenti. E come giustamente viene anche sottolineato da Enrico, la sospensione mentale, proprio effettivamente mentale, di questa traccia di Simon Balestrazzi da Cautionary Tales. Vero e proprio diamante di elettroacustica con strumenti presumibilmente anche autocostruiti. Entra a far parte di diritto nel vasto panorama di questo musicista. Da molti molti anni riferimento delle avanguardie nostrane. Arrivato a salutare Gianluca Becuzzi qui a Roma e Jean-Claude Berthaud in Val d'Aosta, che poi tirerò in ballo più avanti per ringraziarlo di un album che manderò tra un po'. Invece saluto Alberto Clipper e Cecilia Miradoli, anche perché andiamo un po' a sentirci questa loro interessante collaborazione che ha partorito una traccia dal nome Creeping. Come ho già detto, mi rende orgoglioso il fatto che si siano conosciuti tramite questo spazio e che alla fine abbiano avuto il tempo di collaborare. E sperando che questa collaborazione abbia anche un seguito, per adesso ci godiamo Creeping in questa extended version. collaborazione vincente tra Alberto De Clipper, MDMA e Cecilia Miradoli di Pindare in questa Creaming. Creeping, che mette in evidenza proprio le notevoli capacità vocali di Cecilia. Un brano che spero abbia un seguito con una lunga collaborazione tra questi due ottimi artisti. Intanto in sottofondo già è partito il buon Gianluca Becuzzi da questo Mana, ultima sua fatica. Un doppio sontuoso CD e questa sera ho scelto Land on the Totem. incredibile spessore e intensità e pathos espresso da Gianluca Becuzzi in questo ultimo suo ottimo lavoro del Dome Mana, un doppio CD che vede anche la partecipazione del già citato Cristiano Bocci. Questa sera anche in compagnia di uno splendido gatto al pari di Dario Righi, almeno vedo dalle belle foto postate sul profilo Facebook con il quale stiamo chiacchierando amenamente durante prove tecniche di trasmissione. Gianluca Becuzzi, un'incredibile carriera e un'incredibile creatività che lo contraddistingue da 30 anni circa. Nessun cedimento, ma coerenza artistica. Come dicevo qualche minuto fa, vado a ringraziare Jean-Claude Aubertot per un motivo molto semplice. Più o meno scherzando, su qualche giorno fa su proprio Facebook ho postato un brano di Mina che a torto ragione ha rappresentato una bella cosa degli anni 60, 70 e non solo. E quindi lui immediatamente mi ha proposto di andarmi a sentire un album delle forbici di Manitou, di Vittore Barone ed altri, in cui si coverizzava in maniera favolosa proprio le canzoni di Mina. L'album si chiamava Zona Minata ed è uscito, per quanto mi riguarda, in maniera proprio inosservata nel 2019. Quindi le forbici di Manitou, con la collaborazione di moltissimi artisti stranieri e non, sono andate a rivisitare in maniera veramente eccellente tanti brani di Mina. E quindi da Zona Minata ci ascoltiamo Cartoline con la collaborazione di Uncodified, Città Vuota con Sigillo Mess e Un'ombra con i Capricorni Pneumatici.

mai, e questa volta per sempre sarà. Intanto vado, saluto qui di fronte il buon Christian, amico di questa radio, che è venuto a prendersi la sua scarceranda. Ricordo una volta, già reperibile qui in radio e nelle varie situazioni di lotta, che si possono rintracciare sul sito di Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info, e lo ringrazio in diretta, chiaramente. Ma vado anche a ringraziare le forbici di Banitù per questa surreale e visionaria operazione di rivisitazione del panorama e del repertorio di Mina. Si chiama Zona Minata. Tintarella di luna. Sentite questa Tintarella di luna che ci ascolteremo il prossimo mercoledì. Questa sera invece Cartoline, Città Vuota e Un'ombra con Uncodified, Sigillumes e Capricorni Pneumatici. Operazione questa che ha avuto anche la supervisione di Bruno Cossano, almeno mi dice così il buon Jean-Claude Berthaud. Che fa bianca la tua pelle, ti fa bella fra le belle, e se c'è la luna... Quindi ne sentiremo delle belle nelle prossime settimane. Andiamo avanti, andiamo da Pan Dai Jing, personaggio della scena cinese ma trapiantata a Berlino, la parte femminile del noise, tra le più valide esponenti del noise femminile degli ultimi anni. Ci ascoltiamo Jade, terzo lavoro, dal quale estraiamo Metal e Moema Forever.